Il Signore disse a Mosè: vendica i figli di Israele dai Madianiti, poi ti riunirai al tuo popolo. Mosè ordinò al popolo: si armino tra voi uomini per l'esercito, marcino contro Madian per eseguire la vendetta del Signore contro Madian. Invierete nell'esercito 1000 uomini per ogni tribù, di tutte le tribù di Israele. Così, tra le migliaia di Israele, furono forniti 1000 uomini per tribù, 12.000 uomini equipaggiati per la guerra. Mosè li mandò in guerra 1000 per tribù, e con loro Pinchas, figlio del sacerdote Eleazzaro, con in mano gli oggetti sacri e le trombe per l'acclamazione. Mossero contro Madian, come il Signore aveva ordinato a Mosè, e uccisero tutti i maschi. Oltre ai loro caduti, uccisero i 5 re di Madian, Evi, Rechem, Sur, Ur, Reba, e uccisero con la spada Balaam, figlio di Beor. Poi i figli di Israele fecero schiave le donne di Madian, i loro bambini, fecero razzia dei loro animali, dei loro greggi e di ogni loro bene. Incendiarono le città dove abitavano e i loro recinti, presero tutto il bottino e la preda, gente e animali, e condussero i prigionieri, la preda e il bottino a Mosè, al sacerdote Eleazzaro e alla comunità dei figli di Israele, accampati nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico. Mosè, il sacerdote Eleazzaro e tutti i capi della comunità uscirono incontro a loro, fuori dell'accampamento. Mosè si arrabbiò contro i comandanti dell'esercito, capi delle migliaia e capi delle centinaia che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro: «Avete lasciato in vita tutte le femmine. Furono esse, per suggerimento di Balaam, a stornare dal Signore i figli di Israele nel fatto di Peor e ad attirare il flagello sulla comunità del Signore. Ora uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le lascerete vivere per voi. Voi fermatevi fuori dell'accampamento per 7 giorni. Chi ha ucciso qualcuno e chiunque ha toccato un ucciso si purifichi nel 3° e nel 7° giorno. Questo per voi e per i vostri prigionieri. Purificherete anche i vestiti, tutti gli oggetti di pelle, tutti i lavori di pelo di capra e tutti gli oggetti di legno». Il sacerdote Eleazzaro disse ai soldati che erano andati in guerra: «Questa è la prescrizione della legge che il Signore ha ordinato a Mosè: l'oro, l'argento, il rame, il ferro, lo stagno e il piombo. Tutte le cose che sopportano il fuoco le farete passare nel fuoco e saranno pure. Siano poi purificate anche nell'acqua lustrale. Tutto quello che non può sopportare il fuoco lo farete passare nell'acqua. Laverete i vostri vestiti nel 7° giorno e sarete puri, poi rientrerete nell'accampamento». Il Signore ordinò a Mosè: «Tu, il sacerdote Eleazzaro e i capi dei casati della comunità, fate il computo della preda che è stata fatta in persone o animali. Dividerai a metà la preda tra chi ha preso parte alla guerra e tutta la comunità. Preleverai come contributo per il Signore 1/500 delle persone, buoi, asini e pecore, della parte spettante ai soldati che sono andati in guerra. Ne prenderete della loro metà e la darete al sacerdote Eleazzaro come prelievo per il Signore. Sulla metà dei figli di Israele prenderai 1/50 delle persone, buoi, asini, pecore, e li darai ai Leviti, che hanno in custodia la dimora del Signore». Mosè e il sacerdote Eleazzaro fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè. Ora il bottino della razzia che avevano fatto i soldati dell'esercito era di 675.000 pecore, 72.000 buoi, 61.000 asini e 32.000 persone, cioè donne che non si erano unite con uomo. La metà, cioè la parte di quelli andati in guerra, fu di 337.500 pecore, e il tributo per il Signore fu di 675 pecore, per i buoi 36.000, di cui 72 in tributo al Signore, 30.500 asini, di cui 31 in tributo al Signore, 16.000 persone, di cui 32 in tributo al Signore. Mosè diede il tributo di prelievo del Signore al sacerdote Eleazaro, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Quanto alla metà dei figli di Israele, che Mosè aveva diviso dagli uomini dell'esercito, la metà per la comunità fu di 337.500 pecore, 36.000 buoi, 30.500 asini, 16.000 persone. Mosè, dalla metà spettante ai figli di Israele, prese l'uno per 50 delle persone e degli animali e li diede ai Leviti, che hanno in custodia la dimora del Signore, come egli aveva ordinato a Mosè. I preposti alle migliaia dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia, si avvicinarono a Mosè e gli dissero: «I tuoi servi hanno fatto il censimento degli uomini di guerra che erano ai nostri ordini, e non ne manca nessuno. Vogliamo presentare in dono al Signore quello che ciascuno di noi ha trovato di oggetti d'oro, catenelle, braccialetti, anelli, orecchini, collane, per fare il rito di espiazione per noi davanti al Signore». Mosè e il sacerdote Eleazaro presero da essi l'oro, tutti gli oggetti lavorati, tutto l'oro del prelievo che i capi di migliaia e i capi di centinaia fecero per il Signore, fu di 16.750 sicli. Gli uomini dell'esercito tennero ognuno per sé quanto avevano razziato. Mosè e il sacerdote Eleazaro presero l'oro dei capi di migliaia e di centinaia e lo portarono alla tenda del convegno, in ricordo ai figli di Israele, davanti al Signore.